24 mattino. Alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati. 24 mattino è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua, buona settimana. A tutti, grazie. Allora, oggi parliamo delle tariffe energia per famiglie disagiate, come preannunciato. Esattamente, è un tema che abbiamo già affrontato a Soldi e dintorni e abbiamo spiegato con la collaborazione degli esperti dell'Autorità del Gas e dell'Energia quale procedura deve essere seguita per avere il diritto ad ottenere da parte delle famiglie a basso reddito questa agevolazione tariffaria appunto nel settore dell'energia. Si è però appurato in queste settimane che poche famiglie ne hanno fatto richiesta, nonostante i comuni si siano dati da fare anche per semplificare la procedura per inoltrare questa domanda. Ora la notizia è che ci potrebbe essere una proroga per la richiesta, la scadenza naturale per fare la domanda sarebbe fissata al 30 aprile, ma ci potrebbe essere appunto, ribadiamo, una proroga, come scrive anche in anteprima questa mattina il Sole 24 Ore in un articolo della collega Francesca Milano, titolo "Il bonus energia richiesto da oltre 500.000 famiglie, ma i beneficiari potenziali sarebbero almeno 5 milioni di soggetti". Allora noi stamattina abbiamo voluto fare il punto della situazione, spiegando anche un po' tecnicamente come si sono organizzati i comuni per gestire questa questione. Buongiorno a Massimo Daddio, responsabile Ancitel del progetto SGATA. Adesso daremo tutta la corretta definizione di queste società che abbiamo citato. Daddio, buongiorno e grazie di essere a Soldi e dintorni. Buongiorno a lei, saluti a tutti. Allora, direi di spiegare subito intanto SGATE che cos'è, perché viene tirata in ballo questa società nell'ambito della questione più complessa del bonus energia per le famiglie a basso reddito. A cosa serve concretamente ad un comune utilizzare questa istituzione informatica, io la definisco così questa mattina, e soprattutto qual è il vantaggio finale per il consumatore? Daddio. Allora, innanzitutto precisiamo che SGATE è ovviamente un acronimo, sta per Sistema delle Agevolazioni delle gestioni per l'agevolazione delle tariffe elettriche. Quindi nasce come un sistema per informatizzare di fatto e quindi semplificare tra tutti gli attori coinvolti il processo di acquisizione delle domande per avere accesso alla tariffa agevolata. Il ruolo di Ancitel nasce insieme al fatto che ANCI, come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, si è posta come interlocutore tra i comuni e le istituzioni, quindi ha svolto il suo ruolo corretto di rappresentanza. In questo modo è stato possibile costruire questo sistema in tempi anche molto contenuti e avere di fatto l'intero territorio collegato per consentire ai cittadini di accedere a questo beneficio. Quante realtà sono coinvolte fino a questo momento nel progetto, che in realtà non è più a questo punto un progetto ma è qualcosa di assolutamente operativo? Quanti certo. Comuni hanno richiesto le credenziali di accesso al progetto SGATE? Siamo dell'ordine dei 7.500 comuni, considerato che in totale i comuni italiani sono 8.100, quindi abbiamo di fatto la copertura dell'intero territorio. I comuni, ci possono essere alcuni comuni che ancora non si sono organizzati, più che altro per problemi amministrativi. Il sistema di per sé si presenta come un'applicazione accessibile via web, quindi non ha un impatto non ha un grande impatto sugli aspetti tecnologici del comune stesso. Daddio, tutto questo impianto ha permesso di sapere che fino a questo momento si può stimare che non più di 500.000 famiglie abbiano fatto richiesta del bonus energia. Si è tanto parlato anche delle inefficienti campagne informative che sono state fatte per far conoscere questa opportunità, ma abbiamo anche appreso, sempre lo scrive il Sole 24 Ore questa mattina sulla base di dati che avete fornito voi, che sarebbero molto di più i potenziali interessati a questo contributo. Come siete riusciti appunto ad individuare questa cifra? Allora, chiaramente parliamo di cifre a consuntivo, nel senso che sono dati acquisiti ad oggi nel sistema. Innanzitutto io farei però un distinguo essenziale per dare una chiara informazione. Il numero di famiglie è cosa diversa dal numero di beneficiari, nel senso che bisogna mediare il numero di beneficiari sul numero di famiglie, appunto, considerando che ogni famiglia possa avere di media 4 o 5 soggetti. Quindi a questo punto il distacco tra il massimo numero di beneficiari possibile e il numero di famiglie vediamo che si riduce. In questo senso noi immaginiamo che il tempo relativamente contenuto messo a disposizione sia dei cittadini per arrivare ad avere questa informazione, non dimentichiamoci che parliamo di fasce diciamo economicamente disagiate, quindi comunque più deboli, meno avvezze all'utilizzo di strumenti informatici. Quindi che è più facile, è più difficile da raggiungere. Più difficile da raggiungere. Sicuramente la realtà comunale, che ha un contatto diretto col tessuto, anche quello più diciamo limitrofo, più di periferia, può essere un elemento essenziale. Mi fa piacere ricordare come, tanto per citare un caso, ma è uno tra tanti, il Comune di Firenze ha organizzato delle campagne ad hoc andando proprio a sollecitare direttamente, quindi un'azione proattiva, i cittadini che sono collegati ai servizi sociali, quindi invitandoli a verificare l'accessibilità o meno a questo beneficio. Dottor Daddio, ci manca un minuto di tempo, allora, tanto per dare un'ultima informazione concreta ai nostri ascoltatori, io sono una potenziale beneficiaria di questo bonus, ammettendo di aver fatto già la domanda al Comune oppure a un CAF, a un centro di assistenza fiscale convenzionato con il Comune per poter gestire questa pratica per me. Posso anche essere nelle condizioni in questo momento, attraverso il vostro servizio SGATE, di verificare a che punto è la mia pratica, come posso fare? Certo, perché da metà di questo mese abbiamo reso disponibili all'atto della presentazione della domanda delle credenziali di accesso al cittadino, che può collegarsi sul sito www.bonusenergia.anci.it, che tra l'altro approfitto perché raccoglie tutte le informazioni utili al cittadino, e esiste un'apposita funzione di accesso al sistema per verificare se lo stato di lavorazione della propria domanda, perché forse è utile ricordarlo, la domanda subisce un controllo formale appunto attraverso il sistema, il Comune stesso verifica la correttezza e la congruenza dei dati anagrafici dichiarati, poi c'è l'ultimo controllo effettuato dal distributore di energia elettrica, perché l'utenza, il tipo di contratto, quindi deve rispondere a determinate caratteristiche, quindi solo al completamento di questi controlli si ha fisicamente lo sconto, la tariffa agevolata direttamente in bolletta. Quindi se tutto va bene il cittadino non deve fare nulla, però se vuole conoscere lo stato d'avanzamento di lavorazione o il call center rischiando proprio i cittadini, possiamo ricordare il numero. Il numero verde, certamente. 800 166 654. Oppure autonomamente accedendo attraverso il sito. Dottor Daddio, un'ultima cosa, secondo lei fino a quando verrà prorogata appunto la possibilità per fare richiesta del bonus energia? L'autorità dovrebbe farlo sapere oggi, credo. Sì, speriamo ci sia comunque una finestra temporale utile per raccogliere queste prime istanze. Non è possibile stabilire insomma fino a quando potrà farlo. No, non sono in grado. Va bene, la ringrazio. Aspettiamo molto. Aspettiamo ancora qualche ora, l'autorità ce ne prende. Grazie a Massimo Daddio, responsabile Ancitel del progetto SGATE, il bonus energia. Alessandro, abbiamo terminato. Allora, alle 12, Salva Danaio. Salva Danaio, oggi parliamo dell'influenza suina in Messico e negli Stati Uniti, viaggi cancellati verso questi paesi, a questo punto come ci si tutela? Sperando che non diventi anche una nuova psicosi. No, infatti. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Gli Stati Uniti hanno proclamato lo stato di emergenza per la febbre suina che in Messico ha causato oltre 100 morti. In America sono 20 casi confermati di contagio, mentre in Italia il Ministero del Welfare rassicura la situazione è sotto controllo. È sempre più vicino l'accordo tra Fiat e Chrysler. Nella notte i sindacati americani hanno raggiunto un accordo con le due case automobilistiche e il governo americano. L'accordo è definito dai sindacati doloroso, ma si legge nel comunicato, consente di sfruttare la seconda chance per la sopravvivenza di Chrysler. È stata rinviata ad oggi la firma dell'ordinanza del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente per l'assegnazione delle prime agibilità delle abitazioni nel capoluogo abruzzese in seguito alle verifiche sulla stabilità da parte della Protezione Civile. Infine il calcio, il Napoli ha battuto 1-0 l'Inter ieri nel posticipo di Serie A, nerazzurri che rimangono comunque in testa alla classifica, ma il Milan è a meno 7 dopo aver battuto 3-0 il Palermo. Frena la Juventus, 2-2 con la Regina in trasferta e terza a 9 punti di distacco. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Tempo di elezioni, tra poco si avvicinano gli appuntamenti elettorali, 6-7 giugno, con le europee, con le amministrative. E allora c'è un'iniziativa, è tempo di compilazione di liste ovviamente, di presentazione di candidati, chi mettere, chi non mettere. Tra l'altro, attenzione, perché alle europee, contrariamente a quanto avviene per esempio alle politiche italiane, ci sono le preferenze, si possono indicare i politici in lista. E allora, l'associazione Pubblici Cittadini, che è un'associazione nata da poco, il 9 aprile 2009, ha fatto un'iniziativa di cui vogliamo discutere. Voglio salutare il professor Gustavo Ghidini. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lei insegna diritto industriale all'Università LUISS di Roma. Veramente direttamente come cattedra a Milano, alla Statale di Milano, perfetto, e alla LUISS. Perfetto. E fa parte anche di questa associazione, uno dei promotori. Sì, io dei promotori. Ho la lettera inviata sostanzialmente a tutti i leader politici. Ai leader politici ci si rivolge con questo appello. La invitiamo a disporre la pubblicazione sul sito del suo partito del curriculum vitae delle candidate e dei candidati, accompagnato da una autodichiarazione attestante lo status penale dei candidati. La dichiarazione dovrebbe indicare la sussistenza di eventuali condanne, anche in primo grado, di eventuali rinvii a giudizio, di eventuali avvisi di garanzia e, per tutte tali ipotesi, per quali reati. Professore, cos'è una vera e propria radiografia del candidato, insomma? Io credo che la radiografia del candidato sia una misura di rispetto, di trasparenza rispetto al cittadino che deve votarlo. E a parte il caso dell'europea, fra l'altro, che lei ha ricordato giustamente, noi votiamo, questa è un'iniziativa che non serve anzitutto solo per questa tornata elettorale, ma dovrebbe servire per tutte. Ora, attualmente, a maggior ragione, noi abbiamo una legge elettorale che non consente di scegliere candidati, quali vengono decisi dall'alto delle segreterie, sì, dei partiti, e quindi a maggior ragione, in ogni caso, è bene conoscere il candidato o la candidata e quindi avere la misura della sua esperienza, della sua competenza e anche lo status penale, che è particolarmente, secondo noi, importante anche in un paese in cui, anomalia assoluta rispetto al resto dell'Europa, ci sono almeno 3 o 4 regioni e poi non solo quelle, insomma, pesantemente infiltrate. Ci sono anche persone condannate non in via definitiva ma che siedono in Parlamento, è uno dei vecchi cavalli di battaglia, insomma, ma di sì, chi... Ma più, vede, non abbiamo tanto pensato ai casi noti, perché quelli sono noti e quindi la trasparenza c'è, ma soprattutto rispetto alle amministrative o alle nuove leve che vengono su, è bene che la gente sappia per chi vota, è una cosa molto semplice. Quindi trasparenza totale, voi chiedete ai leader dei partiti di mettere tutto online, curriculum vitae. Sì, che esperienza ha, se ha fatto il portaborse oppure se per esempio è un imprenditore, un professionista, è uno che ha fatto qualche cosa nella vita diverso da frequentare segreterie di partiti, per esempio. C'è anche la polemica proprio di questi giorni, tra l'altro adesso ne parleremo anche con un altro ospite. Però è una misura, ripeto, di carattere generale, non contingente, che riguarda il modo stesso e lo scopo anche per cui questa associazione ha preso l'iniziativa di costituirsi, di cominciare ad operare lentamente, perché è molto faticoso, è difficile, e cioè non intervenire tanto nel teatrino contingente della politica del giorno per giorno, ma di allenare e riabituare o abituare specialmente i giovani a concepire la politica come progetto civile di lungo termine. Oggi si va tutto sul breve termine. Dicevo, la polemica di questi giorni, oggi per esempio credo che il Popolo della Libertà, che dovrà far sapere, insomma, quali sono i candidati, insomma, c'è stata anche più magari sul curriculum vitae, no, questa polemica sulle attrici, ex attrici. Io non giudico, cioè nessuno di noi giudica, voler sapere, e poi decidere. Certo, il motto che noi abbiamo preso da Tocqueville, dalla famosa, dal famoso lavoro sulla democrazia in America, è la democrazia è il potere di un popolo informato. Ecco, l'informazione, sapere cos'è, Poi, come sul mercato, io voglio sapere cosa offre, poi scelgo io, certo. Ognuno ha i suoi gusti. Allora, io voglio salutare il vice direttore del giornale Michele Brambilla, buongiorno Brambilla. Buongiorno. Che ne pensa di questa iniziativa, di questa proposta? Verrà accolta, non verrà accolta? Adesso poi magari vedremo anche se c'è qualcuno che ha già reagito in questo senso. Che le sembra l'idea di voler sapere, insomma, chi sono i candidati, in tutto e per tutto? Beh, questa è sicuramente un'idea giusta, che si debba sapere chi si va a votare, per carità. Le modalità con cui viene proposta mi lascia qualche perplessità, innanzitutto per la parte così non penale, diciamo così, che cosa si è fatto, che cosa si è capaci di fare, viene affidato appunto a un'autodichiarazione che non mi pare molto diversa dai volantini che i politici hanno sempre fatto stampare, i cosiddetti santini in vista delle elezioni, no? Si autodefiniscono e quindi possono dire ciò che vogliono, non so nei fatti quale reale possibilità di controllo ci sia da parte dell'elettore, come faccio a verificare che uno è stato un bravo imprenditore, un bravo avvocato e così. Però via. Se uno è laureato, se non è laureato, quello, se è studiato. Sì, no? Vabbè, abbiamo avuto anche casi di finte lauree, comunque insomma vabbè. La parte penale mi lascia perplesso e molto il fatto che si debbano indicare anche eventuali avvisi di garanzia, rinvia giudizio e così via, perché questo consegnerebbe ai magistrati un potere immenso che è quello di bloccare sul nascere le candidature spesso senza un motivo fondato, perché poi dall'avviso di garanzia uno può essere liberato poco dopo le elezioni, ci sono processi che finiscono nel nulla, abbiamo avuto anche casi di governi o ministri caduti per avvisi di garanzia che poi si sono rivelati infondati, e questo credo che possa essere un po' una deriva di un certo vizio ideologico molto giustizialista che c'è stato negli ultimi 15 anni in Italia. Non voglio giustificare minimamente i tanti disonesti, che per carità. No, però questo effettivamente è il punto sul quale, professor Ghidini, sul quale ci può essere più debolezza. Capisco queste. Ecco, perché se io so, per esempio, che uno ha un avviso di garanzia, magari vado a votare e dico: c'ha un avviso di garanzia, quel possibile farabutto. E poi magari sappiamo che. No, ma voglio dire, il cittadino adulto, informato, veramente informato, sa che l'avviso di garanzia è un atto dovuto che non implica minimamente un giudizio sull'attività. Sa che c'è la presunzione costituzionalmente scolpita della innocenza, della presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva. Il cittadino è un adulto che semplicemente vuol sapere. Però, professore, quanti sono finiti, devo dire, anche nella gogna mediatica per avvisi di garanzia? La gogna mediatica, insomma, è una gogna mediatica che risale ai media che fanno la gogna mediatica. Ho capito, però la gente legge anche quello. La gente legge e magari dice: ah, un avviso di garanzia. Ma no, ma la gente, la persona, diciamo, effettivamente informata, quella che si vuole contribuire a creare, da un lato ha diritto di sapere e dall'altro ha il dovere di non lasciarsi andare a conclusioni assolutamente arbitrarie. Però a me interessa sapere se, per esempio, una persona ha un rinvio a giudizio per corruzione oppure perché semplicemente ha fatto un incidente stradale oppure ha allargato il bagno un po' nella casa di campagna, e quello abbiamo messo per quali reati, tra l'altro. Sì, esatto, per mettere i reati. Brambilla, su questo è questo il punto più dolente. Non so che tipo di reazione ci sarà dei leader politici. Ieri ho intercettato, vedendo un po' sui telegiornali, Franceschini, che ha detto, invitato anche i giornalisti, ha detto: cari giornalisti, controllate le fedine penali dei candidati. Ecco, quindi insomma, forse una prima reazione può essere questa, Brambilla. Bisogna distinguere un piano teorico da un piano di realtà. Sul piano teorico la cosa è ineccepibile, e sul piano teorico è vero anche quello che ha detto il professor Ghidini, che sono i media che fanno, perché amplificano poi gli avvisi di garanzia, ma il piano di realtà è un altro. Il piano di realtà è che c'è stato e c'è tuttora un clima in Italia per cui la moralità dei politici si viene delegata in buona parte le iniziative della magistratura solo ovviamente su certi reati, no? Perché uno poi può aver commesso le peggiori nefandezze nella vita, essere un soggetto abietto, ma se non ha mai avuto un avviso di garanzia per una tangente è immacolato. Abbiamo dato la patente di onesti a personaggi che magari non hanno avuto reati contro il patrimonio, ma che per, dal punto di vista morale, per tanti altri aspetti sono peggiori. Siamo sicuri che aver avuto un illecito amministrativo sia peggio che aver preso in giro gli elettori candidandosi in un partito e poi passando a un altro? Io ho qualche dubbio che sia così. Intanto c'è la trasparenza. No, su questo, professor Ghidini, visto che voi avete lanciato questa lettera, l'avete spedita, reazioni ci sono state? No, per ora no. Tra l'altro, intanto è molto presto, c'è stato il 25 aprile, noi siamo una minuscola microbo che si è appena costituito e che, voglio dire, non, a noi interessa soprattutto pensare, sapere, verificare che chi legga questa proposta pensa che sia una proposta in direzione giusta. Poi i particolari si possono anche tarare, può darsi che l'accenno al semplice avviso di garanzia sia un po' eccessivo, però vede, ci sono in questa associazione alcuni anziani promotori, fra cui, non so, il professor Valerio Nida, che certamente sì, certo, non può essere accusato di essere un giustizialista, ma neanche io veramente non sono, ma molti giovani, i quali sono molto delusi della qualità del personale politico in generale, per carità, è una cosa, sì, sì, certo, è un tema molto, diciamo, molto così, attuale, trasversale, e quindi anche della mancanza di trasparenza che c'è, per esempio. Un punto che mi interessante, che vorrei, sì, discutere del direttore Brambilla, che ha detto: ma come si fa poi a controllare? Beh, se è un'autodichiarazione, può essere un volantino elettorale, sì, questo è vero, questo è verissimo, probabilmente sarà anche così, però poi quando si va a distanza sarà difficile controllarlo, ma quando venisse sul sito, per esempio, che nella provincia, non so, di una piccola città, di una media città, sì, il candidato ha detto delle cose non vere o ne ha taciute tante altre, e si espone immediatamente a un controllo sociale, diciamo, sul territorio, della gente che lo conosce benissimo e sa se mente oppure no, se è un cialtrone o no, e lo puoi dire: guarda, non hai taciuto questo. No, ma guardi, professore, la proposta è interessante, è opinabile come tutte le proposte, ma le prometto che ne parleremo, vedremo anche la reazione dei leader politici. Io per il momento mi devo fermare, ringrazio il professor Gustavo Ghidini, professore alla Statale di Milano, alla LUISS di diritto industriale, così come Michele Brambilla, vice direttore del giornale. La seguiremo questa proposta, vedremo le reazioni dei leader politici, sarà interessante, anche se ce ne saranno nessuna, per esempio. Allora, saluto il vicepresidente della Regione Toscana, Federico Gelli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, oggi leggiamo sui giornali, sul Corriere della Sera per esempio: parcheggi in divieto, lavorerai gratis, va spiegata. È una proposta di legge che discuterà tra poco la Regione Toscana. Molto banalmente è questo: per chiunque ha un illecito amministrativo, anche una multa per divieto di sosta, può decidere se pagarla oppure potrà decidere se fare quei lavori socialmente utili. Per esempio, vicepresidente? Ma per esempio aiutare gli anziani in una casa di riposo, oppure pulire le strade, dipingere una cancellata, ripristinare un giardino che è stato brutto, insomma tutte quelle tipologie di lavori che possono essere inseriti in un intervento di interesse pubblico e che la persona che ha commesso un illecito amministrativo potrebbe in qualche modo commutare rispetto alla pena. Un po' come quando economica. Abbiamo visto Naomi Campbell con la scopa ramazzare invece di condannare a fare la spazzina a New York. No? Sì, direi che questa è una, diciamo, metodica abbastanza in uso nei paesi anglosassoni. Da noi ancora non non esiste, ma come regione abbiamo pensato che affrontare il tema della sicurezza urbana e del pubblico decoro delle nostre città è anche un modo per coinvolgere i cittadini nel capire, nel comprendere eventuali comportamenti illeciti che si compiono quotidianamente e che possono in qualche modo essere riscattati, innanzitutto capendo l'errore commesso e poi ovviamente contribuendo al benessere della comunità. Vedremo se andrà avanti, insomma un'ora ogni 20 euro di sanzione, cioè io prendo questa, l'idea, un'ipotesi. È una interpretazione del giornalista, ecco. Che noi ovviamente gli aspetti di natura organizzativa verranno definite dai singoli regolamenti comunali, ovviamente, perché poi ogni comune potrà disciplinare, noi mettiamo i principi, la cornice essenziale, poi i comuni potranno definire quale modalità e quali lavori, però ecco, diciamo, quello potrebbe essere l'ordine di grandezza. L'idea è quella. Dopodiché, vicepresidente, leggevo per le varie infrazioni, non so, anche un divieto di sosta, chi passa le zone a traffico limitato dove non può, lancio di gavettoni. Ma che c'è ancora qualcuno che fa il lancio di No, guardi, noi lanci di gavettoni fatto... d'acqua. Vabbè. Noi abbiamo fatto abbiamo insediato un gruppo di lavoro e da molti mesi che ci lavora, dei comandanti più rappresentativi delle polizie municipali della Toscana, è uscita una cosa veramente preoccupante, nel senso che spesso anche il tema dell'insicurezza dei cittadini è espressione della sommatoria di tanti comportamenti di inciviltà, innanzitutto di cattivo decoro delle nostre città, di comportamenti veramente, veramente perseguibili, insomma. E quindi abbiamo fatto una serie di un elenco di comportamenti, rientrano in quattro macro aree. Una riguarda il tema per esempio della quiete pubblica, un'altra riguarda appunto il pubblico decoro, altre ancora ad esempio riguardano attività di esercizi, abbiamo a volte commercianti o esercizi che occupano abusivamente pezzi del territorio, del sì, terreno, certo, diciamo, il terreno pubblico. Con le loro espositori, ecco, tutto questo ovviamente può essere riordinato, ricondotto, perché una banale ammenda amministrativa per qualcuno può essere molto, per altri invece... Però il valore educativo c'è in questa. Senta, vicepresidente, ora noi dobbiamo venire all'altro tema. Lei si è messo in mente una cosa che secondo me... allora, c'è una persona, un ministro in questo momento che è forse più, possiamo dire, per un certo periodo anche amato, qualcuno dice odiato dagli italiani, è il ministro Brunetta, quello dei contro i fannulloni, che ha ridotto del 45% l'assenteismo riportando al lavoro i dipendenti pubblici. Abbiamo letto, la regione Toscana si è messa in mente, lei in particolare ha detto farò una legge contro la legge Brunetta, la legge 133 che ha rivisto insomma tutto quello che è i dipendenti pubblici. Faremo una legge contro questa legge. Che si è messa in mente di fare uno scontro titanico col ministro antifannulloni? Assolutamente no, al di là delle battute, noi ovviamente siamo d'accordo sulla lotta ai fannulloni, lo abbiamo fatto anche in Regione Toscana, abbiamo licenziato delle persone, cioè ovviamente chi commette anche in questo caso si approfitta della propria posizione e commette degli illeciti deve essere ovviamente perseguito, compreso colui che abusa del proprio ruolo. Noi però abbiamo riscontrato che questa legge determina delle disparità e delle ingiustizie vere e proprie, le faccio alcuni esempi in modo tale che così mi renda ancora più chiaro. Questa legge interviene sui primi 10 giorni di malattia. Bene, questo era ovviamente un meccanismo per tentare di limitare l'assenteismo, ma mi chiedo, le persone che veramente soffrono e sono veramente ammalate, noi abbiamo un paziente, una persona che ha avuto un'amputazione di un piede o chi si è rotto una gamba o chi insomma è difficile dire che non è malato e si trova decurtata a fine mese anche mezzo stipendio, 400, 500, 600 addirittura euro. Perché sai che su questo tema il ministro Brunetta dice attenzione, viene tolto quello stipendio, quella parte dello stipendio, il salario accessorio, cioè quello legato alla presenza, non so, i buoni mensa per esempio. Sì, ma le faccio un esempio di un nostro dipendente che prende uno stipendio di 1.200 euro al mese si è visto decurtare per un braccio rotto 480 euro in un mese. E quindi lei dice vogliamo fare una legge per contrastare questa legge? Perché quello che diciamo noi è che ci sono delle ingiustizie non legate innanzitutto a questo tema dell'assistenza, cioè garantita dalla Costituzione il tema dell'assistenza alla malattia dei nostri cittadini, così come il tema dell'attività sindacale o politica o addirittura della donazione del sangue. Noi abbiamo scoperto che ci sono dei nostri dipendenti che sono dei volontari, vanno a donare il sangue e gli viene detratta dallo stipendio, pensi, dalle 20 ai 40 euro ogni volta. Oppure un consigliere comunale eletto in un'assemblea comunale gli viene detratta sempre dalla propria busta paga durante le ore del consiglio comunale. Cioè, a noi è sembrato un vero e proprio elemento di illegittimità. Dice non è una lotta ai fannulloni, questo è troppo. Non è una lotta ai fannulloni, ecco perché noi vogliamo, nel principio dell'autonomia organizzativa delle politiche del personale che ogni regione ha, ovviamente mantenendo i parametri, mantenendo i patti di stabilità, sì, mantenendo il costo, riducendo i costi della spesa del personale, vogliamo intervenire per cercare di sanare, contrastare questa cosa. Vicepresidente, io mi devo fermare, le faccio in bocca al lupo per questa lotta. So che il ministro Brunetta ha già detto ma prima della Corte Costituzionale la bocceremo noi questa legge, perché le regioni non possono legiferare su questo, ma seguiremo anche questo duello tra lei e Brunetta, se ce lo passa come termine. Grazie vicepresidente della Regione Toscana Federico Gelli. Ci fermiamo qui in chiusura, ricordo Laura Marchese, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, Fiat, Chrysler, forse Opel, questo il tema, e noi ci risentiamo domattina.